Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. E benvenuti anche al 1° ottobre, quindi inauguriamo il mese come sempre con l'ascolto di Radio Bullet, e quindi vi lasciamo davvero in buone mani. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Perù scivola nell'incertezza, dissolto il Parlamento. Stati Uniti, timori per il whistleblower, scaccia la sua identità. Trump intanto chiede aiuto non solo al presidente ucraino, ma anche al premier australiano. Yemen, gli Houthi rilasciano centinaia di prigionieri. In Egitto scompare noto attivista per i diritti umani. Marocco condannata giornalista per aver abortito. Grecia, incendio a Lesbo. Questa non è Europa, è l'inferno, dice Medici Senza Frontiere. E Atene vuole rispedire dire migranti in Turchia, Afghanistan. I candidati proclamano vittoria, ma i risultati delle presidenziali non prima di un mese. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con l'Argentina, dove sale l'indice di povertà al 35,4%. I poveri sono quasi 16 milioni di persone. Perù, il presidente Vizcarra ha sciolto il Parlamento, controllato dall'opposizione, ha annunciato nuove elezioni dopo i ripetuti tentativi dei parlamentari di ostacolare la sua lotta alla corruzione. Qualche ora prima il Parlamento aveva deciso di procedere con un controverso voto per rinnovare quasi tutti i giudici del Tribunale Costituzionale, una mossa che minacciava il piano anticorruzione del presidente, visto che il Tribunale doveva pronunciarsi su alcuni casi importanti di corruzione. Stati Uniti, uno degli avvocati del whistleblower che ha denunciato la telefonata di Trump al presidente ucraino che avrebbe dovuto indagare i Biden, ha criticato la CBS per aver completamente malinterpretato i contenuti di una lettera del team difensivo, riportando che l'informatore è sotto protezione federale. La CBS però ha confermato le sue rivelazioni affermando di avere un'altra fonte. Secondo il Wall Street Journal, presente alla telefonata c'era il segretario di Stato Pompeo. La lettera firmata da Andrew Bacaj e indirizzata al capo della National Agency esprime preoccupazione per la sicurezza della talpa, un agente della CIA, dopo le dichiarazioni minacciose del tycoon e la taglia di $50,000 offerta ad alcune persone per identificarla. L'intelligence americana difende il whistleblower e conferma che non c'è complotto. Intanto il presidente ucraino ha specificato che il suo paese non avrebbe potuto essere costretto ad aprire un'indagine sul candidato democratico Biden o suo figlio, e sia l'Ucraina che la Russia stanno spingendo per la diffusione della trascrizione della conversazione tra presidente Trump e un altro leader mondiale. Zelensky sta cercando di contenere i danni a casa, all'estero, dopo che il mondo ha saputo che Trump lo ha spinto a dare un'occhiata a Biden e al figlio, che era nel consiglio di una compagnia petrolifera ucraina in difficoltà. L'altro leader mondiale potrebbe essere il premier australiano Morrison, a cui il presidente Trump ha chiesto aiuto per screditare l'indagine del consigliere speciale Mueller sulla Russia, che ha offuscato la sua presidenza. Il premier ha ammesso di aver accettato di aiutarlo. In California, una guida turistica, Sua Peng, 56 anni, cittadino americano, è stato accusato di spionaggio per l'intelligence cinese. Avrebbe consegnato informazioni classificate al Ministero della Sicurezza di Stato. È stato arrestato venerdì e gli è stata negata la cauzione. Stai ascoltando Radio Bullets. Nigeria, sabato vi abbiamo parlato di una finta scuola coranica dove centinaia di minori venivano tenuti in catene, torturati. Ora si aggiunge quella che è stata chiamata la fabbrica di bambini. 19 donne e ragazze tra i 15 e 28 anni incinte sono state liberate dalla polizia, prigioniere in alcune abitazioni a Lagos, dove venivano messe incinte e fatte partorire da un'organizzazione che poi toglieva i bambini alle madri e li vendeva. Due donne, infermiere abusive, sono state arrestate. 4 neonati presi in consegna e piccoli venivano venduti a $1,400 maschi e $830 le femmine. Non è chiaro se gli acquirenti siano locali o di altri paesi. Sono dovute andare con 17 uomini diversi prima di scoprire di essere incinta, ha detto una delle vittime. Alle ragazze era stato promesso un lavoro a Lagos, invece venivano tenute prigioniere, trasformate in schiave sessuali. Somalia ha attaccato un convoglio di militari italiani colpito da un ordigno, non ci sono feriti. I militanti di Al-Shabaab hanno rivendicato l'attacco e rivendicato anche quello alla base americana, dove invece sono morti 10 militanti. Yemen, i ribelli Houthi hanno liberato, decisione unilaterale, centinaia di detenuti yemeniti, una mossa che fa sperare le Nazioni Unite in una ripresa del dialogo tra i ribelli e la coalizione saudita. E a proposito di Arabia Saudita, se il mondo non intraprende un'azione forte contro l'Iran, vedremo ulteriori escalation che minacceranno gli interessi mondiali, ha detto il re de facto Mohammed bin Salman, intervistato da 60 Minutes. Con tanto di minaccia, le forniture di petrolio saranno interrotte e i prezzi saliranno come non abbiamo mai visto. Il principe ereditario cerca anche di controllare il danno sull'assassinio del giornalista Khashoggi e sulla guerra in Yemen. Il 2 ottobre dell'anno scorso, il giornalista saudita Jamal Khashoggi entrò nel consolato saudita di Istanbul per ritirare alcuni documenti in vista del suo matrimonio con la fidanzata turca. Non è mai più uscito da quel palazzo, non intero perlomeno. Iraq e Siria aprono il passaggio al confine che era rimasto chiuso dal 2012. Libano, domenica diverse centinaia di persone sono scese in piazza Beirut per protestare contro la crisi economica nettamente peggiorata nelle ultime due settimane, la svalutazione della sua moneta per la prima volta in 22 anni. I manifestanti hanno gridato slogan contro i leader politici accusandoli di essere responsabili di questa situazione oltre che della diffusa corruzione. La lira libanese finora stabile a 1500 contro il dollaro dal 1997 nei giorni scorsi ha ceduto fino a 1650 per dollaro. Il debito pubblico del Libano ha raggiunto il 150% del PIL. Egitto, si teme sia stato arrestato di nuovo uno dei principali attivisti della primavera araba, Ala Abdel Fattah, che ha già scontato 5 anni per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata nel 2013. Era uscito dal carcere nel 2017, restando sottoposto al controllo giudiziario. Marocco, la settimana scorsa vi avevamo parlato della collega accusata di atti contro la morale pubblica, la giornalista Hajar Rasouni, 28 anni, ieri è stata condannata ad un anno per aver avuto una relazione fuori dal matrimonio e aver abortito. Lei nega, parla di emorragie, dice di aver sposato il fidanzato, solo che essendo del Sudan l'ambasciata non ha ancora formalizzato l'atto. In carcere anche il fidanzato, la ginecologa e l'infermiera dal 31 agosto scorso. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Grecia. A deadly fire broke out in a crowded migrant camp on the... Tragedia nel campo per rifugiati e migranti di Moria, sull'isola greca di Lesbos. Migranti che protestavano per l'affollamento e le condizioni drammatiche della struttura avrebbero, secondo le prime notizie, appiccato il fuoco in diversi punti, causando violenti incendi. Tra le fiamme sarebbero morti almeno una donna e un bambino, una quindicina feriti. Poi invece cambio di rotta, non sarebbero dolosi gli incendi, ma si ipotizza un cortocircuito di cavi sul tetto di un container. I migranti, per lo più afghani, si sono anche scontrati con la polizia dopo l'incendio, denunciando ritardi nell'arrivo dei pompieri. Beh, un'orribile tragedia che è la diretta conseguenza delle politiche brutali che stanno continuando a intrappolare a Lesbos tutti questi migranti. 13.000 persone ad oggi nel campo di Moria, in un campo che può ospitarne a malapena 3.000, con dei servizi assolutamente inadeguati. Queste dinamiche e questi incidenti si stanno ormai ripetendo ogni anno e nessuna misura è stata presa finora dalle autorità greche per prevenire queste tragedie. Ogni leader europeo è responsabile della situazione disumana che questi migranti stanno vivendo qui a Lesbos e nelle altre isole greche, e ha la responsabilità di evitare ogni altra morte e sofferenza. È ormai arrivato il momento di bloccare l'assurdo accordo tra Unione Europea e Turchia e la loro politica di contenimento. È necessario evacuare con urgenza le persone dall'inferno che è oggi diventato il campo di Moria. dice Marco Sandrone, capo progetto di Medici Senza Frontiere. Intanto la Grecia ha dichiarato che vuole cominciare a rispedire alla Turchia migliaia di migranti a causa di questo affollamento. La decisione, presa durante un incontro d'emergenza del gabinetto, arriva dopo le richieste di azioni per alleggerire la pressione nei campi pieni di persone sulle isole Egee. Atene vuole mandare 10.000 migranti entro la fine del 2020 in Turchia, ha detto il governo. Europa in allerta per l'arrivo dell'uragano Lorenzo, che sta già mostrando i suoi effetti nella regione inglese del Wales, con pesanti piogge e inondazioni, ha dichiarato il Centro per gli Uragani Nazionale Americano. Sempre più vicino alle isole Azzorre portoghesi, questo evento meteorologico si trova nel mezzo dell'Atlantico e si sta spostando da nord-nord-ovest con venti massimi di circa 165 km all'ora. Mortimer invece colpisce il nord della Germania con venti fino a 140 km l'ora. Olanda, i giudici del Tribunale Penale Internazionale hanno detto che processeranno un uomo sospettato di aver commesso crimini di guerra e contro l'umanità in Mali. Confermate dunque le accuse contro Hassan Abdulaziz, responsabile di crimini tra cui lo stupro, tortura, schiavitù sessuale e attacchi contro edifici religiosi e storici, crimini commessi mentre era capo della polizia islamica a Timbuktu tra il 2012 e il 2013. Il procuratore Fatou Bensouda lo scorso luglio aveva affermato che dopo che il gruppo dei ribelli islamici Ansar Dine aveva preso il controllo di Timbuktu, i civili sono stati sottoposti a un clima di costante paura e repressione. Afghanistan, i risultati non arriveranno prima del 7 novembre prossimo, ma il capo dell'esecutivo, Abdullah, ha dichiarato di aver vinto le elezioni che si sono tenute sabato scorso, affluenza del 20%, mai così bassa in quattro elezioni presidenziali, 400 attacchi, per fortuna poche vittime. Abdullah per la terza volta tenta la presidenza, in realtà la commissione elettorale invita alla calma, ci sono già state 2.569 denunce di brogli e se nessuno dei principali candidati avrà ottenuto il 51%, si andrà al ballottaggio. India, non si placano le piogge monsoniche che dovrebbero già essere finite nel loro periodo. Nelle ultime 24 ore nell'Uttar Pradesh e nel Bihar sono morte più di 100 persone, allagati anche gli ospedali oltre a case ed edifici, mentre aumentano i morsi di serpente che provocano altri morti. Con i canotti si raggiungono le persone da salvare. Nella capitale di Bihar ci sono 2 milioni di persone che si trovano con l'acqua ad altezza vita. Indonesia, migliaia di persone in piazza per protestare contro una legge che vanifica il lavoro dell'Agenzia Nazionale Anticorruzione. Scontri con la polizia e le autorità hanno bloccato le strade che portano al Parlamento. Hong Kong, oggi migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade con lo slogan "Senza paura" nel giorno dei 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Se ci sarà pressione, hanno detto gli attivisti, ci sarà risposta. Non vogliamo spargimento di sangue né gente arrestata, ma se la polizia sarà fuori controllo non possiamo garantire nulla. La polizia ha usato spray urticante. Intanto a Pechino il presidente Xi Jinping ha detto che la Cina continuerà ad applicare in pieno il principio un paese, due sistemi, mantenendo un alto livello di autonomia, riferendosi proprio a Hong Kong. È ancora aggiunto che nessuna forza può spegnere il paese e mostra missili che possono raggiungere gli Stati Uniti. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, buon proseguimento di ascolto e naturalmente di giornata, a domani. Stop you. Bravi, bravissimi teenager che venerdì avete scioperato per l'ambiente. Lodevoli neo-diciottenni, encomiabili quindicenni, commoventi dodicenni, tutti figli, anzi fratelli, ideali di Greta. Ma ora si torna a scuola, non può esserci uno sciopero climatico al giorno, almeno non per ora. E quindi, ora che la pacchia è finita, che ne rimane di concreto del vostro ambientalismo della piazza facile? Niente, perché le scelte da fare non toccano a noi, direte, e noi a scuola non possiamo fare niente, o quasi. Ecco, l'hai detto. O forse l'hai solo pensato, tu che stai ascoltando. Perché tra il niente e il quasi ci può essere un abisso, o quantomeno una bandiera, verde, quella delle Eco Schools. Students form an action plan. Sono 52.000, sparse in 74 paesi del mondo, Italia inclusa. Le Eco Schools sono scuole di ogni ordine e grado che aderiscono volontariamente ad ambiziosi progetti di sensibilizzazione e salvaguardia dell'ambiente. I think the most exciting thing about Eco Schools is seeing the engagement of students and how enthusiastic they are about the projects they run. And, se riescono a portarli a termine, ricevono la bandiera verde e possono esporla almeno per un anno. Dopo 12 mesi, una nuova verifica dirà se sono ancora all'altezza e se non lo sono, la bandiera si ammaina. Prova ne è che nel 2017, sul totale di quelle registrate, solo 17.000, circa un terzo, erano effettivamente attive. Già, ma chi è che dà i giudizi, ovvero stabilisce a chi dare la bandiera? Le Eco School sono una creazione della FI, sigla che sta in italiano per Fondazione per l'Educazione Ambientale. Era il 1994, due anni dopo la prima conferenza mondiale sul clima, quando sotto l'ala della Commissione europea fu creato questo organismo per stimolare i sistemi scolastici ad adottare comportamenti virtuosi. Da allora la rete delle Eco Schools si è moltiplicata, anche se non al ritmo esponenziale del cambiamento climatico. A proposito, il sistema inventato dalla FI costa, tant'è che se una scuola non paga la quota di adesione, circa 300 euro all'anno, la bandiera verde se la può scordare in anticipo. Un meccanismo che somiglia alle certificazioni ambientali che nella prima parte degli anni 2000 ebbero un'impennata di popolarità anche tra tante imprese italiane, ma non in misura sufficiente ad evitare la brutta aria che ci ispira oggi intorno. Tuttavia, le Eco Schools non lo sono solo di nome o di bandiera. Qualche esempio concreto? La scuola Albertini di Fiumicino, alle porte di Roma, ha potuto fregiarsi del titolo dopo essere riuscita ad installare pannelli solari e contenitori per la raccolta differenziata. La primaria Castillo di Sanremo è riuscita ad avviare un orto e a curare il giardino negli spazi circostanti la scuola. Una cosa simile l'hanno fatta anche la scuola elementare di Triangia, in provincia di Sondrio, con un effetto moltiplicatore. Il percorso da Eco School ha allontanato il rischio che la scuola chiudesse per scarsità di alunni, ha trasformato l'orto in ala aggiuntiva dove fare parte delle lezioni e ha dato linfa ad un progetto parallelo, chiamato Rifioriamo la Terra, per rilanciare la coltivazione del grano saraceno, una coltura in via di estinzione nella Valtellina, nonostante lo stretto legame con le tradizioni culinarie della zona. Che cosa avete fatto per questo progetto? Abbiamo diffuso la raccolta differenziata in tutte le classi e soprattutto a casa, nel consumo dei ragazzi. Allo stato attuale in Italia risultano un centinaio di Eco Schools. In Finlandia sono il triplo, per dire, ma è comunque molto meglio di niente. Certo, c'è spazio per fare di più e del resto l'Eco School non è l'unico percorso che, anche in Italia, permette alle scuole di dare segni tangibili per la salvezza del pianeta. C'è ad esempio il Daily Mail, ne avevamo parlato in Minori Report giusto un paio di anni fa e ce ne sono molti altri. Insomma, cari studenti tornati a scuola dopo lo sciopero verde, si può andare oltre la giornata di festa, basta volerlo e convincere insegnanti e genitori. Cioè gli adulti, e questa è la cosa più difficile, vero Greta? Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno, fanno fermare una pioggia d'argento. Ma piove, piove sul nostro amor. Ciao. Ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta. jean. È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. 9 e 33 minuti di questo. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. A differenza di Paganini, noi ripetiamo, quindi dicevamo 9:34 minuti di 1° ottobre e finalmente il tema ecologista, il VEAD, è entrato sui giornali. Dovunque ci sono macchie di ecologismo nei titoli. Peccato che quando poi leggiamo l'interno la cosa cambia radicalmente. Per esempio, l'economia del Corriere. Dopo l'alta velocità, l'auto elettrica, la partita e gli esami di Torino. Quindi è la green economy. Poi leggiamo che incassate la vittoria sul TAV, quindi qui di verde c'è assolutamente nulla, che permette l'inserimento del Piemonte nelle grandi piattaforme logistiche internazionali. Gli industriali torinesi si trovano di fronte con un'altra traversata, quella che stavolta dovrebbe portare in tempo X, quindi tempo X vuol dire forse dopo che è finito il mondo, all'auto elettrica. Ieri a Torino si è tenuta l'annuale assemblea della Confindustria. Questo è il peana che dà il Corriere della Sera su questo argomento. Sempre anche la Confindustria da sempre è stata green, che non green non si può. Ma e poi andiamo, per esempio, le città contro lo smog. Lo stop di Milano al diesel Euro 4, cioè praticamente di fatto è sempre il Corriere, ma ogni anno è così, no? Bologna punta sugli autobus elettrici, ma i 17 capoluoghi hanno già superato i limiti annuali di PM10, la classifica di Legambiente, Torino e Alessandra le peggiori. E la ricercatrice del CNR: l'inquinamento non si blocca, non si risolve bloccando la circolazione per qualche giorno. Quindi Questo è quanto, ma ci consoliamo perché andiamo alla Camera, c'è un progetto di generali, Elisabetta Alberto Berti Casellati, Presidente del Senato, promuove il progetto Il futuro visto dai bimbi, ecco, non poteva mancare anche questa cronaca. Mentre la signora Casellati convoca le scuole al palazzo Val Ferré, il ghiacciaio ha accelerato la sua corsa, quindi l'ambiente insensibile, la nuova sensibilità giornalistica sull'ambiente, continua a procedere. Courmayeur, la parte frontale sta scivolando più velocemente, 90 centimetri nelle ultime 24 ore. Devo dire che se andiamo agli esteri invece forse anche la patina verde sui giornali sparisce, perché leggo: dallo Sri Lanka sconfinavano nei campi, stragi di elefanti in Sri Lanka. Sette animali avvelenati nei terreni coltivati vicino alla foresta, ma ce ne sono altri. E dal Monte Bianco il Manifesto ci informa che il ghiacciaio adesso sta cadendo più velocemente, un blocco di 27.000 metri cubi si sposta di 90 centimetri al giorno, per gli esperti potrebbe cadere proprio nei prossimi giorni, anche se non arriverebbe a valle. Si parla di traffico, allora dal Carlino oggi ci sono due pagine sulle città asfissiate. Stop al traffico, ma è una babele di divieti, da oggi restrizioni per inquinamento, ma ci sono troppe differenze tra una città e l'altra, e quindi bisogna prima avere una sorta di vademecum. Con un'intervista a Rossella Muroni, deputata di LeU, già presidente di Lega Ambiente, che dice: puniti i più poveri, così guidano solo i ricchi, non vengono offerte alternative a chi non può cambiare auto. Dobbiamo pensare a una fiscalità ambientale, a un'IVA più bassa, per tema che poi ritroveremo, per i comportamenti che impattano meno sull'ambiente. E però c'è poi un esperto dal Carlino, Nicola Pirrone del CNR, che boccia questa stretta dei divieti. Non è l'arma antismog, serve solo per evitare le sanzioni dell'Unione Europea. E allora si può guardare anche al viaggio del futuro, ad esempio Milano-Torino in 7 minuti, ma non è la TAV, è il primo Hyperloop italiano, treno super veloce a levitazione magnetica. Mentre più prosaicamente ci possiamo accontentare di questa rivoluzione sulle rotaie per i pendolari, 86 nuovi treni in Emilia-Romagna, e insomma sicuramente ce n'era bisogno. Andiamo invece con il Manifesto in Francia, perché c'è questo rogo della fabbrica di Rouen, la fabbrica Lubrizol, classificata Seveso, già un vaticinio, che è andata a fuoco tra mercoledì e giovedì e resterà chiusa fino a quando non avremo capito perché è bruciata. Lo ha comunicato la ministra francese Elisabeth Borne, che è ministra della transizione ecologica. Scopriamo che la Francia ha un ministero, non all'ambiente, sarebbe banale, il ministero della transizione ecologica, che è abbastanza, anche ambizioso. A 4 giorni dall'incendio, però, insomma, molte domande continuano a restare senza risposte. Non solo chiacchiere, perché leggo il Green New Deal. La parola è un nome dato alla proposta di legge avanzata dalla deputata dem statunitense Alessandria Ocasio-Cortez, quella socialista che fa scandalo, che prevede il passaggio al 100% di energia pulita entro il 2030 contro i cambiamenti climatici. Questo è un flash che arriva dal Corriere, che poi aggiunge: anche in Italia il governo Conte ha posto la sua priorità un New Deal verde. Poi, quando parleremo della manovra, vediamo che non c'è una lira, ma comunque. Ma perché questa attenzione per i verdi? Non certo perché ci si preoccupa dei mari che possono sommergere gli atolli, i ghiacciai che scivolano, perché si è visto che i verdi hanno molti voti in Europa e possono fare dei governi. Quindi Kurz tentato da un governo con i verdi, ma il prezzo è alto. Questo è il Corriere. Il politologo Pelinka divisi sulla immigrazione. Posso immaginare che se verdi sono verdi veramente, divisi anche qualcos'altro con il popolar fascista Kurz. Altro scoglio, l'economia. Ecco, punto. Una volta togli immigrazione e economia, per il resto sulle varie eventuali possono essere d'accordo, anche per istituire una festa dell'albero, chi lo sa. I Grünen, cioè i verdi, non accettano in Italia lo Stato sociale. Questo è quanto. Ma allora abbiamo Elena Grandi, portavoce degli ambientalisti italiani, invidiosi dei cugini austriaci, ora tocca a noi. Loro molto bravi a comunicare, forse non è solo una questione di comunicazione, per quanto importante. Allora anche dalla stampa, Kurz, la tentazione dei Verdi, la grande coalizione per il clima. Si lavora ad un governo tra conservatori e ambientalisti, sarebbe il primo caso in Europa. Allora Kurz avvierà colloqui con tutti i partiti disponibili, la mia priorità è rafforzare l'economia. Mentre Sigrid Maurer, neodeputata dei De Grünen, ci aspettiamo da Kurz una svolta completa, non scapperemo dai colloqui. Quindi vedremo come come succederà, cosa succederà in quel di Vienna. Ma per tornare a casa nostra, la stampa nel retroscena di Roberto Giovannini, il paradosso italiano, ci sono degli elettori ma manca un partito. L'ecologismo senza leader, si vedono solo come la forza dei no. Ecco che appunto c'è questa grande pressione perché i Verdi diventino tra virgolette compatibili. Sì, e su questo anche altri giornali, ad esempio Repubblica intervista il segretario del partito di Kurz, che appunto ha trionfato in Austria, dice: abbiamo vinto le elezioni perché, questa è la ricetta, abbiamo fatto ciò che la gente apprezza, sgravi fiscali e bonus per le famiglie. Questo appunto è la ricetta. Ma Kurz si è spostato molto a destra, dice il saggista Robert Misk, intervistato dal Manifesto, e quindi dovrà riposizionarsi. E sulle possibilità appunto del governo con i Verdi, che hanno avuto un grande successo, quindi un governo turchese verde, perché il turchese è il colore del partito di Kurz, risponde Misk, saggista e giornalista, autore di molti volumi: la domanda è se Kurz saprà portare il suo partito al centro e se i Verdi metteranno sul piatto della trattativa richieste che possono vendere come successo, ma senza mettere troppo in alto l'asticella. Negli ambienti progressisti Kurz è fortemente odiato, per cui sarà molto difficile per i Verdi argomentare le ragioni di un governo con lui, ma d'altronde l'Austria deve essere governata e Kurz ha il 37%. O governa con la FPÖ o con i Verdi o con la SPOE. Considerando tutte le circostanze, il governo con i Verdi mi sembra la variante più ragionevole. E in questa realpolitik, questo labirinto di maggioranze e questa svolta verde, ma solo nei titoli, evidentemente Greta Thunberg o Thunberg che scompare, anzi, diventa oggetto di derisione, strali, insulti e quant'altro. Tra gli altri anche Massimo Cacciari, un famoso filosofo di Venezia che espone le sue teorie di scuola dalla Lilli Gruber, e ce l'ha con Greta Thunberg. Greta semplifica sull'ambiente come Salvini fa con i migranti. Di fatto la insulta, insomma. Massimo Cacciari: le generalizzazioni dilagano e indeboliscono l'identità dell'Europa. In questa stagione manca qualcuno che si opponga adoperando la forza della ragione, dice Massimo Cacciari, che si aspetterebbe da Greta Thunberg un ragionamento molto più compatibile, soprattutto che tragga spunto dall'out-out di Kierkegaard o da qualche pezzo di Schopenhauer, chi lo sa. Il Movimento Verde in sé è un messaggio europeo a trasgredire i sistemi esistenti. Vediamo che ancora una volta Cacciari vuol fare l'anima critica al bastian contrario a tutti i costi. I Verdi nuovamente vittoriosi in Austria possono essere un'alternativa ai populismi? E risponde a Francesca Paci, che fa le domande per la stampa. Dice Cacciari: i Movimenti Verdi ha un sé quel logico europeo, quel logos europeo, qui già si vede il filosofo, il logos, a quel logos europeo originario, l'idea di trasgredire ai sistemi esistenti. Ma c'è anche l'altro, l'autosoluzione, e poi mi pare che ancora manchi una visione d'insieme: quali sono le vie di uscita della distruzione del pianeta, quanto costano, quanti posti di lavoro sacrificheranno? E ancora, su Greta Thunberg gli europei sono tutti d'accordo, da Macron ad Orbán. Quando è profondo tutto il resto, la distanza tra l'Europa occidentale e quella centro-orientale? E qui naturalmente Redi di Bertrand Russell, Massimo Cacciari fa l'apologia dell'Occidente. Basta parlare di Greta, lei è il sintomo di un possibile tema, ma il suo messaggio è nettamente semplificato, perché Cacciari avrebbe nei cortei degli striscioni dove si mette il titolo, il sottotitolo, i commi, l'indice e anche la nota bibliografica magari. Basta parlare, è semplificato, come quello di Salvini sui migranti. Con i paesi dell'ex blocco sovietico c'è un problema reale, perché si possono portare dietro immagini ultra semplificate: sono i figli di una dittatura votata la riduzione dell'uno, conoscono solo il bianco e il nero. Sì, non so quanto appunto la Svezia possa essere ascritta a questo consesso di cui parla Cacciari, comunque che tutte le soluzioni poi possano arrivare da questa ragazza mi sembra veramente un po' una pretesa un po' eccessiva. Nel frattempo però Greta non si prende solo la lavata di capo del professor Cacciari, esimio filosofo, ma si prende anche una sequela di insulti come quella di questo post di cui ci parla oggi il giornale nelle sue pagine sportive, dell'allenatore dei giovanissimi del Grosseto Calcio, che insomma non si occupa solo di calcio, ma è uno che guarda anche oltre il proprio naso, e ha postato nei giorni scorsi questo post, questa puntini 16 anni può andare a battere, l'età ce l'ha. Ha scritto un post che ha fatto infuriare il Grosseto, che lo ha licenziato immediatamente per comportamento non consono, e lui insomma ha cercato di scusarsi: chiedo scusa a tutti, a cominciare da Greta, un'esternazione scritta in un momento di rabbia con un linguaggio sbagliato del quale mi pento, non ho mai pensato né potrei pensare davvero certe cose, difficile, insomma non è che ci sia un'articolazione tale che possa dare adito a equivoci, ma il Grosseto è stato irremovibile e quindi il licenziamento irreversibile. A proposito ovviamente di Greta e la generazione di Greta ha innescato anche questo dibattito sul voto ai sedicenni in Italia, che piace un po' a tutti, il sì di Conte dei partiti dopo la proposta di Enrico Letta, tutti in coro, quel milione di nuovi elettori tra Europa e ambiente andrebbero a incidere per il 2% sul corpo elettorale. Tema che ritroviamo anche dalle pagine del manifesto, dove però Andrea Fabozzi scrive: è una fuga in avanti che piace a tutti, ma il vero problema in Italia è quello dell'età per essere eletti, che invece è la più alta in tutta Europa, mentre una voce contraria è quella dei presidi. Dice infatti il presidente dell'associazione di categoria: i sedicenni di oggi sanno più cose dei coetanei di qualche anno fa, ma la possibilità di votare, dice appunto l'associazione presidi, non può prescindere dalla maggiore età. Ma che il petrolio valga più dell'ambiente lo dimostrano i mondiali di atletica a Doha, che naturalmente è capitale del petrolio, ma non certo del clima per l'ambiente. A proposito di clima, leggo dallo scandalo di Paolo Zugliani del Fatto Quotidiano: Doha, mondiali all'inferno, l'importante è sopravvivere. Sport estremo, sì, più che delle maratone, delle marce, sembra rollerball. Comunque, gli atleti sono costretti a gareggiare in condizioni disumane, tra malori e ritiri, perché la IAAF, come la FIFA, ha assegnato i giochi al Qatar. Beh, domanda retorica, evidentemente, sono di sponsor i soldi, e tra l'altro si guarda giustamente questi atleti perché sulla loro pelle, così dice il Fatto Quotidiano, Bashbi è stato portato in spalla al traguardo, il 40% delle maratonete ha abbandonato. Ma che bello sport. Ma se pensiamo poi invece a quelli dentro lo stadio dove c'è l'aria climatizzata, qual è l'impronta energetica, il risparmio energetico per climatizzare uno stadio affinché la gente possa correre senza morire? Questo è. E allora, ma la potenza del dollaro si vede anche, o del petrodollaro, si vede anche perché ci porteranno i mondiali di calcio di turno inverno, sconvolgendo tutti i campionati del mondo, tra le altre cose, sempre con lo stesso principio. Poi abbiamo l'altro aspetto di questo inchinarsi al petrodollaro: l'atletica senza pubblico e seminia. Mondiale in uno stato semivuoto, gli 800 orfani della sudafricana che non ha accettato il diktat di questa IAAF. Sì, e la Repubblica oggi mette proprio una foto in prima pagina, la foto centrale di un marciatore ucraino oro, vincitore della marcia 50 km, che arriva al traguardo veramente in condizioni disastrose, viene soccorso. Poveri atleti svenuti e venduti, scrive Emanuela Audisio parlando di scandalo a Doha. Lo sport collassa, per ora è l'atletica, ieri è stato il ciclismo, domani toccherà al calcio, uno sport venduto e comprato. Il primo mondiale in una sauna senza autunno, 38 gradi di giorno, nessuno in giro, e trasvenimenti, vomiti, crisi intestinali. Se arrivi però ti assiste il medico, ci mancherebbe. E allora ci sono alcuni atleti che si esprimono, ad esempio lo sprinter inglese Gemili: non, noi atleti non contiamo nulla, qui non c'è nessuno a vederci. Oppure Eleonora Giorgi, marciatrice laureata alla Bocconi con Master: ho visto gente stare male in modi che faccio fatica a descrivere. Persino le maratonette etiope non finlandesi parlano di caldo così opprimente, dicono: beh, da noi in queste condizioni non si correrebbe. Tu parlavi dei costi, ti dico subito che raffreddare lo stadio Qualifa è costato appena 81 milioni di euro. Raffreddarlo relativamente, poi, perché i risultati non è che siano brillantissimi. Senza parlare, poi l'Audisio ci mette un altro carico da 90, senza parlare del clima culturale. Per avere allo stadio delle toilette per le donne si è dovuto insistere, hanno messo un segno woman su quello degli uomini, infatti dentro ci sono i pisciatoi maschili. Ma vogliamo formalizzarci? Certo che no. E allora da Doha è meglio rinfrescarci un attimo, e quindi andiamo alla 13ª edizione della Terra dei Tutti Film Festival, dove all'interno, quella che si svolgerà la settimana prossima, martedì 8 ottobre a Vag Santuno, verrà presentato il documentario Controcorrente, ovvero sia lo stato dell'acqua in Italia. Dai ghiacciai che si sciolgono alle falde inquinate, Claudia Carotenute e Daniele Giustiozzi hanno girato l'Italia scovando i conflitti ambientali che sono anche qui da noi. Abbiamo parlato con la Claudia Carotenute, sentiamo le sue parole. C'è stato un viaggio in tutti i sensi. Allora, l'idea è nata ormai più di un anno fa, quando, diciamo, io e Daniele abbiamo deciso di unire le nostre competenze. Io sono una giornalista, lui è un dottore in economia ambientale, quindi abbiamo deciso di unire le nostre competenze per realizzare un prodotto che avvicinasse il pubblico più vasto, diciamo, non un pubblico di settore, alle problematiche ambientali. Quindi così è nata un po' l'idea, perché c'è sempre questa convinzione che, diciamo, le problematiche ambientali interessano soltanto i tecnici, i ricercatori, invece non è così, e noi per dimostrarlo, diciamo, abbiamo fatto un viaggio che attraversa tutta l'Italia. Un viaggio che fa di Controcorrente un lavoro, un documentario a impatto zero, perché avete anche, c'è anche un bosco, che, spiegaci un po' questa cosa. Sì, allora, chiaramente il documentario, poi lo vedrà, insomma, se ne renderà conto, oltre appunto un prodotto cinematografico, è anche una missione ambientalista, e noi ci tenevamo molto alla coerenza del nostro progetto, e quindi anche se abbiamo cercato di ridurre il più possibile le emissioni a monte, quindi utilizzando un'auto ibrida per il viaggio, dormendo in tenda, insomma, cercando di abbassare il più possibile le emissioni, comunque per produrre un documentario ci sono necessariamente delle emissioni da produrre, e quindi, diciamo, Daniele insieme ai suoi colleghi dell'Università di Torino ha calcolato la carbon footprint del documentario, sia l'impronta ecologica del documentario, che ammontava a 2,5 tonnellate di CO2, che sono state poi compensate e sovracompensate con la piantumazione di un bosco in provincia di Vercelli, che ti invito a visitare perché è dove sorgerà l'avento nei prossimi anni, e conta 200 alberi. Noi, per compensare le nostre emissioni, avremmo dovuto piantare circa una 50ina di alberi, ne abbiamo voluti piantare 200 per creare anche, no, non solo per ridurre a zero, ma per creare anche un credito positivo per l'ambiente, e questo l'abbiamo fatto grazie alla Regione Piemonte, che ci ha messo a disposizione gli alberi. Come tematica ambientale avete deciso di fare un focus su un elemento, diciamo, basilare, prezioso, che è quello dell'acqua. Quali sono, come dire, gli aspetti che avete preso in considerazione nel vostro viaggio? Sì, allora, noi siamo partiti dall'acqua perché è il primo elemento, l'elemento essenziale per la vita di ognuno, e perché ci permetteva di collegare la tematica ambientale anche all'aspetto sociale, economico, politico e religioso. Quindi il nostro viaggio è un viaggio ambientalista che parla d'ambiente, però che, diciamo, viene sviscerato anche da questi altri punti di vista. Infatti noi abbiamo parlato di cambiamento climatico, di diffusione dei ghiacciai, ma anche di infiltrazioni mafiose all'interno della gestione idrica, soprattutto per quanto riguarda il meridione. Abbiamo parlato di zone contaminate e abbiamo parlato con gli attivisti vestiti di Greenpeace, con, insomma, abbiamo cercato di raccontare un'Italia un po' diversa e nascosta rispetto a quello a cui siamo abituati, fatta di persone che lottano per portare avanti queste battaglie, insomma. Se doveste fare un bilancio delle realtà che avete conosciuto e che raccontate nel vostro lavoro, che bilancio sarebbe? Qual è lo stato di salute dell'acqua nel nostro paese? Questa è una domanda molto difficile. In realtà quello che noi abbiamo visto e verificato è che ci sono sicuramente, l'Italia non è scevra dai conflitti ambientali, perché uno pensa sempre che il conflitto ambientale sia in Amazzonia, sia sugli Assai, e invece non è così. Ci sono molte problematiche in Italia, ma allo stesso tempo ci sono anche fortunatamente tante realtà che si stanno prodigando per cercare di risolvere. Parlo di realtà quali quelle della ricerca. I nostri ricercatori sono tra i migliori, gli attivisti che ti citavo prima, quindi soprattutto Greenpeace e Lega Ambiente sono i primi che, diciamo, che hanno collaborato con noi per il documentario, ma ce ne sono tantissimi. Ci sono i comitati cittadini, abbiamo incontrato le mamme No Fas, ci sono dei giovanissimi, dei nostri coetanei che hanno deciso di dedicare la propria vita alla soluzione di questi conflitti ambientali. Anche, diciamo, l'offerta formativa delle università negli ultimi anni sta cambiando, quindi, diciamo, diverse problematiche, ma anche fortunatamente realtà che provano a porre rimedio, ecco. Voi avete iniziato un anno fa, insomma, a fare questo lavoro, e poi i temi ambientali, diciamo, sono tornati prepotentemente al centro anche dell'attenzione mediatica, la battaglia dei Fridays for Future, Greta Thunberg, eccetera eccetera, ma anche notizie non positive come appunto ghiacciai che scompaiono, addirittura rischiano di travolgere i paesi sottostanti. L'ultima domanda che ti vorrei fare riguarda proprio la sensibilità delle persone a questo tema. Hai riscontrato, come dire, una sensibilità spiccata su questi temi, o ancora secondo te c'è molto da fare? Sicuramente hai fatto un giusto appunto, sia il tempo che noi ci abbiamo messo a realizzare il documentario, ossia quando è iniziato questo progetto sicuramente se ne parlava meno rispetto ad oggi. C'è fortunatamente una maggiore sensibilità a queste tematiche, il movimento dei Fridays for Future sicuramente è stato utile in questo senso. Quello che ti posso dire proprio personalmente è che spero che questo dibattito sulle tematiche ambientali non si esaurisca come la notizia del giorno, la notizia di questo periodo, o al contrario come una moda. Cioè, spero che si sia aperto uno squarcio nelle coscienze degli italiani, perché insomma noi abbiamo affrontato l'Italia, ma in generale, e che non sia solo un momento, ecco. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E devo dire a questo punto che, ahimè, cambiamo pagina, voltiamo pagina, perché veniamo alla manovra e la famosa svolta green, almeno per quanto riguarda le prime avvisaglie dei conti, non si vede tanto. Leggo il tema principale, cioè le 24 ore lo evidenzia in modo netto: manovra da 30 miliardi, l'IVA non aumenta e il paese è bloccato, dice Fabio Tamburini, la vera sfida rimane il rilancio dell'economia. Un'economia che qui è priva di aggettivi, non è né red, né noir, né green. Mentre IVA congelata, questa è la stampa, servono 7 miliardi, Conte è ottimista, li recuperiamo dalla evasione, Gualtieri possibile la rimodulazione delle aliquote, Stefano Lepri dice lo sforamento del deficit, nessun sconto dall'Unione Europea. Sembra essere già finita la Via Rose, la luna di miele tra il nuovo governo e l'Europa, che sarebbe stata in teoria più possibilista nel deficit, invece sembra proprio di no. Anche il Corriere, il titolo è analogo: manovra, l'IVA non aumenta, il governo vara un piano di circa 30 miliardi, crescita del PIL più 0,6% nel 2020. Naturalmente incombono due grandi mostri sulla possibilità di uno sviluppo o non sviluppo della nostra economia: uno è la Brexit, l'altro sono i dazi di Trump. Nel frattempo Libero naturalmente suona la gran cassa della destra, il governo del tradimento, non si capisce chi abbia tradito chi, visto che prima di questo tradimento ce n'era un altro, cioè l'accordo tra Lega e 5 Stelle. Comunque arrivano le tasse su case e aziende, riforma del catasto, penalità sui contanti, nuovi tributi ambientali, la manovra aumenta il deficit per foraggiare i fanulloni e i brigatisti. E perché i brigatisti lo vedremo dopo, questo volo pindarico di Libero che ci mette in mezzo mezzo anche le Brigate Rosse, che, perché non guasta mai, fa colore. Detto questo, abbiamo il tempo, anche qua si va al processo delle intenzioni, come se non bastassero già i fatti. Il tempo, pronto uno scherzetto sulla casa, la manovra sarà accompagnata da un disegno di legge collegato per rivedere tutti i valori catastali. Questo è, ieri davano altri scherzetti, oggi danno questo, quindi in qualche modo ogni giorno si ne inventa uno, anche perché ormai tra cose vere, verosimili e false, ormai è tutto una sorta di grande blog. Stop all'IVA, mancano 5 miliardi, è il Messaggero. Andiamo al Mattino, costo del lavoro, taglio rinviato, la tanto il cuneo fiscale richiamato sembra essere non fuori dalle compatibilità. Il Gazzettino, stop IVA, mancano 5 miliardi, mentre la Gazzetta del Mezzogiorno, Conte disinnesca la mina IVA. Sì, il Manifesto gioca con il nome del nuovo partito, della nuova formazione di Renzi, Italia IVA. Renzi apre le ostilità sul possibile aumento dell'imposta. Abbiamo voluto questo esecutivo non per fermare Salvini, ma per fermare le tasse. Duro scontro con il PD e il governo corre ai ripari. Prima del Consiglio dei Ministri i soldi escono fuori, anche per un mini cuneo fiscale, ma solo sulla carta. E Renzi avverte: senza di me non c'è maggioranza. Quindi via libera al DEF. Per ora quindi Conte disinnesca la rissa. Questo è il resoconto del Manifesto. 5 miliardi trovati aumentando le stime della lotta all'evasione. Ma dovrà essere non una lotta, una guerra campale all'evasione per arrivare a queste cifre. Niente tasse sulle merendine, arriva in compenso il bonus Befana. A gennaio rimborso a chi spende con carte di credito. Niente tagli all'istruzione, anche se il ministro Fioramonti aspetta 3 miliardi di rifinanziamento. Governo in manovra, anche il titolo della Repubblica. Bonus da 475 euro per chi paga con carte di credito. Questa è la Befana di Palazzo Chigi, termine che ci ritroviamo ripropinato un po' in tutte le salse. Stop all'aumento dell'IVA, manovra da 29 miliardi, sarà una lotta mai fatta nel passato, dice un bellicosissimo presidente Conte. Mentre dal Carlino, IVA ferma, mini taglio delle tasse, tutto un po' in scala minimale. Befana nella calza della manovra, tasse un taglio a metà, scintille tra Renzi e il PD con tregua armata sull'IVA, mentre l'economista Cottarelli commenta con scetticismo: la spesa cresce, non servirà a rilanciare il PIL. E anche il Giornale infierisce altri 8 miliardi di tasse, lotteria del Bancomat e tagli ai comuni, tutte le misure, con Alessandro Sallusti che chiede con un accorato appello: pensare agli ultimi ma senza punire i primi. Sì, la botte piena, la moglie ubriaca, come si dice. Comunque, allora, questa Italia stranissima che si impenna e si arrabbia moltissimo solo nell'ipotesi di pagare qualche centesimo in più di tasse su una bibita gasata per favorire l'istruzione. Allora, leggiamo: conti pubblici meno sgravi a chi guadagna di più, dice Federico Fubini dal Corriere. La riduzione su spese sanitarie e ristrutture edilizie, ma non sui tassi passivi dei mutui. Le ipotesi per reti fino a 100.000 euro, il dilemma delle coperture e il nodo delle tasse. E i punti, la manovra un po' riassunto anche il Corriere. Sempre poi siamo in termini di illazione, di veline, di rumors, voci ben informate. Vedremo poi quando andrà concretamente in Parlamento quei cambiamenti che in Parlamento potrà avere. Modifica quota 100, cuneo fiscale ridotto da luglio 2020, pagamenti e sconto per le carte, 7 miliardi dell'evasione, aumenti i contratti pubblici, il gelo dei 4 miliardi necessario. Comunque la cosa certa è che non ci siamo fatti prendere le mani dall'IVA. Prendi questa mano. Non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi. Dimmi se ricambia parte del mio amore. Devi dirlo, questo tocca a te. c'è scritto che lo perderò. Come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino. E dopo aver abbassato l'IVA, noi andiamo invece ancora a Conte, stop parenti sul fisco, basta giochini e fibrillazioni. Franceschini sferza l'ex premier, l'armania di invisibilità all'ogri governi e scontro con Italia Viva. Insomma, sembra che adesso lo scontro principale non sia più tra PD e 5 Stelle, ma tra PD e il partito neonato di Renzi. Ma il taccuino del politologo della Stampa, Marcello Sorgi, è Renzi, Di Maio, qui no decisi che sanno tanto di pretattica. Nel frattempo dalla pretattica ai vincoli, Angelo Buscema, che voi non sapete chi è ma lo dico io, è il presidente della Corte dei Conti, dice: preoccupa l'aumento del debito, non basta spendere per la crescita, dice no alle erogazioni a pioggia, che la cosa è curiosa perché le erogazioni a pioggia non andrebbero fatte neanche se non ci fosse il deficit, fino a prova contraria, però insomma sono quelle cose, no, gli sprechi vanno sempre bene. E allora Vediamo, sentiamo anche invece i commenti ad esempio del versante sindacale. Repubblica è andata a sentire il vice segretario generale della CGIL Vincenzo Colla, che dice: sul lavoro serviva più coraggio, la traiettoria è giusta ma i numeri sono da rivedere. Dipendenti e pensionati hanno bisogno di recuperare il potere d'acquisto perduto, l'IRPEF ormai è diventata una tassa dove la progressività è scomparsa, mentre il lavoratore autonomo continua a beneficiare della flat tax e le tasse sui beni di lusso, continua Colla, si potevano aumentare. Nel frattempo, come dicevi, molti giornali invece, più che appunto andare a vedere un po' tra le pieghe di questo documento che porterà la NADEF, che porterà appunto verso il DEF. Ci muoviamo tra acronimi e sigle. Il giornale conferma: vince l'asse Movimento 5 Stelle Renzi, il PD finisce già alle corde. Quindi questo scontro in qualche modo viene, che era incubato, sembra venir fuori. Con la sortita televisiva di Di Maio, l'annuncio di uno stop pentastellato a qualunque ipotesi di aumento dell'IVA, che fa storcere il naso ai dirigenti del PD, visto che l'uscita non era stata preventivamente concordata. E il giornale fa un po' di dietrologia, ritornando a quel balcone del 27 settembre 2018, quando l'allora Di Maio uscì sul balcone di Palazzo Chigi per annunciare alla folla di militanti pentastellati l'abolizione della povertà dopo il braccio di ferro con l'ex ministro Tria. Insomma, tra sempre verità e quasi verità e assolute fandonie, e un nuovo governo che si arrovella per trovare la quadra su questo DEF e le coperture, il rapporto deficit prodotto interno lordo. E allora, come facciamo tradizionalmente in questo periodo, andiamo alla campagna Sbilanciamoci, quella che presenta un altro bilancio è possibile, che ha presentato la propria nota di aggiornamento a questo DEF. Tra le proposte torna una volta il Green New Deal e lo scorporo delle spese ambientali, sociali e distruzione del patto di stabilità. L'intervista è quella a Giulio Marcon. Intanto diciamo che le risorse si possono trovare al di là dello sforamento del rapporto, che poi non è uno sforamento perché si tratta di arrivare al 2,2-2,3, quindi comunque sotto il 3% che è vincolo dei trattati, e tratta di trovare comunque altre risorse, e non le risorse si possono trovare in vari modi, ad esempio riducendo i sussidi ambientali, cosa che il ministro Costa aveva provato a fare con un decreto ma è stato fermato, con la riduzione delle spese militari e con una politica fiscale che colpisca maggiormente chi più ha, nel senso che oggi purtroppo i grandi patrimoni, le grandi multinazionali e le rendite non sono tassate in modo adeguato, non sono

che viene definita una scissione in peggio di Libero. Sembrava impossibile, ma insomma c'è sempre il peggio. Si tratta di 623 euro al mese, riconosciuti dall'INPS in quanto si trova sotto la soglia di povertà e con due figli a carico. In base alla legge del 28 marzo 2019, numero 26, che istituisce per l'appunto il reddito di cittadinanza, Federica Saraceni può beneficiare del studio previsto e aspettare una chiamata dal navigator per un'offerta di lavoro per i centri di impiego. E questo anche per, tornando a Libero, anche per ladri, stupratori e assassini, anche perché i figli a carico evidentemente sono tra gli altri innocenti. Anche il giornale oggi ha una fotonotizia in prima pagina, no al reddito per l'ex brigatista, e il Carroccio blocca le camere, la Lega sale sull'Aventino e blocca le camere per protesta. Il Carroccio diserta appunto per il sussidio alla Saraceni, e anche dal Carlino l'assegno delle polemiche, condannata per il diritto d'Antona riceve 623 euro al mese. C'è la risposta, come dire, in punta di diritto del presidente dell'IPS, che dice la Saraceni ha tutti i requisiti, quindi per noi non c'è niente da dire. Però il Carlino ci ricorda che anche Raimondo Etro, brigatista condannato a 20 anni per concorso nel sequestro Moro, percepisce 780 euro di reddito di cittadinanza, quindi va a pescare un altro caso. Devo dire che sul Carlino però, mentre il giornale appunto ha la foto in prima pagina, il Carlino invece oggi è più preoccupato di un altro, di un'altra notizia che è sconvolgente per il quotidiano bolognese. A Bologna il tortellino che piace all'Islam, senza carne di maiale sostituita dal pollo. Idea della diocesi per l'imminente festa di San Petronio. Si chiama Tortellino dell'Accoglienza, farà il suo esordio venerdì, quando nella diocesi di Bologna non si celebra San Francesco ma il patrono delle due torri, San Petronio. La nuova pietanza sarà distribuita in Piazza Maggiore insieme a quella tradizionale, e naturalmente vengono scomodati chef che si schierano pro o contro, per la religione si può fare, così diventa un'altra cosa, gli chef insomma si dividono, e il Carlino, in nome dell'ortodossia, riporta la ricetta del vero ripieno con prosciutto, lombo e mortadella, depositato il 15 aprile 2008 alla Camera di Commercio. Sì, questa cosa, oltre che sul Carlino locale, che ancora una volta primo titolo, il tortellino San Petronio, la curia offre il ripieno di solo pollo, invita al dialogo interreligioso, questo, e rimanda poi le pagine nazionali, ma addirittura anche il Corriere Nazionale ha una pagina intera. Tortellino senza maiale e per la festa del patrono, Bologna si divide, la scelta di zuppi per integrazione e ripieno di pollo. Questo è, naturalmente se uno va a Cantone gli domanda, vuole il brodo di cane o di manzo? Uno prende il brodo magari anche di manzo o di pollo, ma insomma sembrano ovvietà. In realtà fa meno impressione, per quanto riguarda la cronaca, questa notizia, che si parla quando si parla degli altri, tra virgolette, che poi altri non sono, nel caso specifico, io sculture, io campionessa dico addio al taekwondo, la burocrazia non mi fa essere italiana. Parliamo di Alessia Korotskova, 21 anni, arrivata in Italia dalla Siberia 18 anni fa, però naturalmente io soli no. Perché non regaliamo come dice la Meloni, lo Soli a tutti, uno di 18 anni in Italia, che lavora in Italia, studia in Italia e corre per l'Italia? No, non ha diritto. E Alessia si è arresa, per la prima volta in vita sua è andata al tappeto a sconfiggere, leggo la Repubblica Online, non è stata un'avversaria, ma la burocrazia italiana, la legge del 92. Alessia Korotkova è una campionessa nazionale di Taekwondo, ma anche una nuova italiana appesa al permesso di soggiorno. A 21 anni devo fermarmi, senza cittadinanza, rischio di dover rinunciare a quello che era il mio sogno, da solo non posso farcela. Qual era il suo sogno, appunto, a giocare per l'Italia e magari portare una medaglia al Taekwondo? Sì, appunto, ovviamente questo è, questa vicenda, questa denuncia appunto di questa ragazza rilancia anche il tema della cittadinanza. C'è dal Manifesto l'intervista a Giuseppe Brescia, Grillino, della Commissione Affari Costituzionali della Camera, da lui presieduta, dice: la cittadinanza è un diritto ma serve consenso sociale, bisogna battere chi cerca solo voti alimentando guerre tra poveri, l'integrazione e l'inclusione passano attraverso la scuola, con lo Ius Culture si dà valore al ruolo delle famiglie e degli insegnanti. Questo appunto è la chiosa, ma appunto molto, molto cauta a dire il vero. Nel frattempo, a proposito invece di cambiamenti, abbiamo Casaleggio che interviene all'ONU per parlare di democrazia digitale, il voto online è un modo per esercitare un diritto, questa è la Repubblica che lo racconta, mentre il Giornale in maniera più maliziosa scrive: Casaleggio turista per caso a New York, i 5 Stelle in imbarazzo minimizzano sul discorso del patron alle Nazioni Unite. A proposito di digitale, il Carlino oggi saluta la cartolina postale che compie 150 anni, la prima fu spedita nell'impero austro-ungarico, oggi i selfie l'hanno praticamente seppellita. La cronaca, ahimè, ci si porta ancora una volta sulle morti sul lavoro. Siamo alla FCA di Cassino. Qui un operaio quarantenne ha perso la vita in un incidente mortale sul lavoro nello stabilimento FCA di Piedimonte di San Germano, in quella proprio di Cassino. Secondo le prime ricostruzioni, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da una pressa a freddo che si era bloccata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cassino e anche il magistrato. Sempre sul lavoro, torniamo in cronaca locale, la Perla corsa contro il tempo, regione, sindacati, città metropolitane e azienda fissano un nuovo incontro per arrivare ad un accordo da portare l'8 ottobre al MISE, cioè al Ministero del Lavoro. CGIL e CISL, un passo in avanti, Bonaccini dice siamo con voi. E Mercatone 1 è l'altra crisi nostrana che si risultava del MISE con 400 lavoratori su 1800 cassa integrati. D'altronde, avverte il manifesto, secondo i dati dell'Istat cala la disoccupazione, ma perché c'è sempre meno forza lavoro, quindi come dire, un calcolo numerico. Poi, a proposito di cronaca, abbiamo detto del caso Saraceni, ma ce ne sono anche altri oggi, che altri casi che muovono l'indignazione, ad esempio del Carlino, che torna sul delitto della studentessa inglese Meredith Kircher a Perugia. Omicidio Meredith, semi libertà per Rudy Gede, condannato a 16 anni per l'omicidio, di giorno può uscire, lavora nel centro criminologico di Viterbo. Il tribunale di sorveglianza ha però respinto la sua richiesta di affidamento ai servizi sociali. Nonostante per la giustizia italiana sia l'unico colpevole dell'omicidio, Rudy Gede oggi ha ottenuto la semi libertà. Al massimo tra 2 anni potrebbe uscire fuori dal carcere. Condannato a 16 anni con il rito abbreviato, gli sono già stati graziati oltre 1000 giorni. Anche qui dimenticando, insomma, che non c'è nessuna, come dire, nessuna distanza da quelle che sono, appunto, da quella che è l'applicazione della sentenza che è stata formulata dai tribunali. Pagina internazionale si apre con una foto notizia da prima del Corriere, tragica: morte tra le fiamme nel campo profughi. Siamo a Lesbo, almeno 2 persone, una donna e un bimbo, sono morti in un incendio scoppiato domenica a Moria, hotspot dell'isola greca di Lesbo. Secondo quanto affermato dall'Unione Europea, le condizioni di vita nel campo sono insostenibili. Intanto crescono i sospetti circa il possibile allentamento dei controlli sulle partenze di migranti da parte del governo di Tunisi, in vista della trattativa arrivata al ministro degli esteri Luigi Di Maio. Chiaramente la massa di disperati diventa anche arma di ricatto tra un governo e quell'altro quando vanno a fare i trattati. Andiamo in Arabia Saudita col Medio Oriente, firmato dalla Stampa, l'inviato a Riyadh. Bin Salman avverte l'Occidente sull'Iran: fermatelo o il prezzo del petrolio schizzerà. Qui parliamo di ricatti, mi sembra evidente gli schieramenti in questa guerra che per adesso vede come tragico campo di battaglia lo Yemen, ma rischia di dilagare in tutta l'area. Il principe saudita, il fascista Mohammed Bin Salman: conseguenze inimmaginabili se la produzione viene bloccata dagli attacchi di Teheran. Evidentemente l'attacco dei droni o non droni nei campi petroliferi grandi dell'Arabia Saudita ha fatto del male al principe e al suo potere personale. In Cina la grande parata, il dragone compie 70 anni, ma non è così popolare, secondo il Salvatore Cannavò. A Tiananmen la Cina ricorda la fondazione della Repubblica Netta nella stessa piazza che fu teatro della rivolta, mentre naturalmente ad Hong Kong continuano la sommossa dei Black Bloc. Il massacro 1979, chi sfidava i carri armati Deng replicò: risolverò il problema. Ieri e oggi la nuova spina nel fianco a Hong Kong, per l'appunto la società chiede il conto. E sulla Cina, appunto, anche le pagine della Repubblica di oggi nel versante esteri, appunto, con questo col Cina Show, festa è parata a Tiananmen per i 70 anni della Repubblica, con il presidente Xi Jinping più morbido con Hong Kong. E poi abbiamo una serata riservata di Boris Johnson con i suoi conservatori. Corbyn, dove si è infilato il giornalista di Repubblica carpendo alcune perle di Johnson, urla e pistole dentro lo show proibito di Johnson, Brexit a fine mese, Corbyn è come un pollo al cloro. Questo è appunto alcuni dei giudizi. Mentre negli Stati Uniti, sesso, droga e corruzione, il Kiev Gate affossa i sogni presidenziali della famiglia Biden, come a dire che dalle frequentazioni ucraine è scaturito l'impeachment per Trump, ma anche insomma un bel ostacolo per la candidatura di Biden. Anche dalle pagine del manifesto, come già accennava Alfredo, c'è il ricatto saudita, Arabia Saudita, però il regno del principe Mohammed bin Salman vacilla a sua insaputa, bellicoso con l'Iran, quasi reo confesso sull'omicidio Khashoggi e appunto pronto al ricatto petrolifero. Sparito al Catani, braccio destro del principe implicato nella morte del giornalista, si è sfilato, diciamo così. Nel frattempo in Egitto, tra i 2300 arrestati dopo le ultime proteste, c'è una vecchia conoscenza, un blogger simbolo già della rivoluzione del 2001, Ala Abdel Fattah, nuovi record per la repressione di Al-Sisi, presi di mira anche gli stranieri. E poi abbiamo le presidenziali in Afghanistan, aspettando i risultati ufficiali, l'astensione però, commenta Giuliano Battiston, premia i talebani. E ancora dalle pagine della Repubblica abbiamo queste due notizie che si specchiano l'uno nell'altro. L'inglese si studia su un'app, i prof non serve più. Insegnanti declassati a tutor nelle scuole della Wall Street English, sono iperformati ma guadagnano meno e minacciano lo sciopero. Sul guadagnare meno c'è uno studio americano del MIT, il celebre Massachusetts Institute of Technology, che ci dice che i robot non ci ruberanno tutto il lavoro, perché le macchine stanno arrivando più lentamente. Quello che invece arriva velocemente sono i salari, che si abbassano sempre di più, e su questo invece appunto non c'è nessun andamento lento. Effettivamente un robot costa meno di uno schiavo. Quindi chiudiamo invece la nostra scena stampa con questa donna che ha affascinato i passeggeri della metropolitana di Los Angeles con un'esecuzione strabiliante dell'aria "Oh mio bambino caro" dall'opera Gianni Schicchi di Puccini. È una clochard col suo carrello pieno di stracci. Lei è stata identificata come Emily Zamur, che ha 52 anni. La donna è arrivata negli Stati Uniti d'America da Russia all'età di 24 anni, violinista e pianista di formazione classica, ha fatto l'insegnante di musica prima di iniziare a soffrire di gravi problemi di salute che l'hanno costretta a diversi lavori per sbarcare il lunario e affrontare le spese sanitarie. Quindi non è una bella storia né curiosa, è una tragedia, e che solo cantandocele chiare questa donna ha fatto capire di essere una persona e non un invisibile. Allora sentiamo la bellissima voce che hanno registrato nella metropolitana, che è andata virale nei social, poi l'abbiamo messa a confronto con la divina, la Callas. Beh, insomma, regge anche lo scontro. Bambino caro, E con la voce della Divina Callas ci avviamo a chiudere, non senza ricordare la scomparsa di Giuseppe Campos Venuti, l'architetto urbanista, appunto scomparso domenica a 93 anni. Repubblica lo saluta così: addio a Campos, l'urbanista geniale, Bubi che ridisegnò la città salvando la collina, urbanista partigiano e comunista che affrontò Dozza dicendogli: il tuo piano regolatore, che appunto prevedeva anche di utilizzare la collina a fini abitativi, è tutto sbagliato. Recupero delle aree interstiziali, metro leggero e fascia boscata, i pilastri dei suoi piani regolatori ancora attuali. Domani aperta al pubblico la Camera Ardente in Comune in sala Tassinari dalle 11 alle 15. E con l'addio a Campos Venuti, un pezzo della Bologna di un tempo, chiudiamo questa rassegna stampa di oggi. Naturalmente un buon proseguimento di giornata e un buon ascolto con i programmi a seguire di Radio Città Fujiko.